Sono le 8, 19 minuti e 55 secondi. Questa è la terza parte di 24 mattino di lunedì 26 ottobre. Al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8:35 avremo ospite il Vice Ministro della Salute Sileri, sarà poi con noi un imprenditore per fare il punto un po' sulla situazione, su quello che stanno vivendo le imprese in questo periodo. Gianluigi Cimmino, che è l'amministratore delegato Yamamay e Carpisa, per darvi l'idea di che tipo di imprenditore è. È però il momento del punto di giornata adesso con Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno. Buongiorno, eccomi. Eccoci qua. Cosa hai visto oggi? Iniziamo come sempre dal fronte Covid sparso, senza andare o andando solamente in parte su quelli che sono i grandi temi, che poi cosa è chiuso e cosa è aperto lo troviamo sui giornali. Però forse questo, allora, si può anche commentare. Che dici? Comincio da una notizia che non è sui giornali, ma che domani ci sarà, che nell'entourage, nel gruppo ristretto di Mike Pence, vicepresidente degli Stati Uniti, sono stati trovati 5 contagiati. La maledizione del Covid si è abbattuta su Trump, e dopo aver avuto guai lui, la moglie, figlio e tutti quanti, adesso anche il vicepresidente è in pieno marasma. Quanto ai provvedimenti, mi hanno colpito due cose, i provvedimenti di conto ovviamente, mi hanno colpito due cose. Una è, la prendo da quello che tu dicevi venerdì, non aveva fatto in tempo a dire che in una settimana avrebbe verificato come andavano le cose nelle palestre, che prima ancora di dirci il risultato di questa verifica ha chiuso le palestre insieme ai cinema, ai teatri, ai ristoranti. Ora, palestre, cinema, teatri e ristoranti, per quello che mi risulta, ma mi risulta bene perché ho letto e seguito e ho visto in questi giorni, sono i posti più ordinati che esistono nel paese, dove il contagio è minimo. Io capisco i provvedimenti per impedire le leggi antimovida, e quelle le fanno anche negli altri paesi, però accanirsi per esempio su cinema, teatri, luoghi di cultura, lì si va in un decimo o un ventesimo degli spettatori consentiti, si sta distanziati quasi uno ogni 3 posti, insomma mi sembra una cosa strana, ma non lo dico per unirmi al coro della protesta, ma per dire che non mi aspetto dei grandi risultati di diminuzione di qui a una settimana, a meno che non ne voglia fare un provvedimento la settimana prossima, prima di aver visto come ha funzionato questo di nuovo, questi provvedimenti. Dici di nuovo, sì, cioè, Paolo, poi un'altra cosa che mi ha stupito, aspetta, te lo voglio dire, è la parola forte raccomandazione. Innanzitutto lui fa delle raccomandazioni in DCPM, sì, di starsene a casa, di fare come un lockdown. Paolo, abbiamo l'audio del Presidente del Consiglio, sentiamolo questa storia della forte raccomandazione. Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo, ma rivolgiamo una forte raccomandazione a tutti. Bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, di salute, di studio, di necessità. E raccomandiamo anche di evitare di ricevere a casa persone che non facciano parte del nucleo familiare. Mi raccomando, mi raccomando, Paolo. Meno male che non è una debole raccomandazione, perché se ha sentito il bisogno di mettere la forte raccomandazione, ma mi sembra che insomma i segnali, guarda, anche leggendo i giornali, persino il Fatto Quotidiano, che è il giornale più tifoso per Conte insieme al Foglio che esista in Italia, comincia a nutrire dei dubbi, e dei dubbi traspaiono, visto che avrai Sileri lì fra poco, anche sì. Sileri è una delle persone migliori che stanno in questo governo, è uno dei 5 Stelle, anche se dice che è capitato lì per caso e che appena finisce questa esperienza se ne vuole tornare a lavorare in ospedale. Dice che vuole andare a San Raffaele a lavorare per Zangrillo. Allora oggi Pietro Senaldi sul Libero gli dice: ma come Zangrillo, proprio quello che ha detto che il Covid era clinicamente morto? E Sileri dà una risposta che non mi convince, dice: ma sono eccolo critiche qua. Ha usato un'espressione infelice, ma molti degli addetti ai lavori hanno capito benissimo che cosa intendesse, che il virus arrivava più in terapia intensiva, no? Ma lui non deve parlare, se farla un'intervista da Lucia Annunziata non parla agli addetti ai lavori, lui deve, a parte che non è vero neanche questo, perché come vedi il virus sta mandando le persone in terapia intensiva e la fotografia di un attimo a fine maggio non può essere. E poi lui dice un'altra cosa, dice ma poi Zangrillo è, cosa volete che dica, è un anestesista, e appunto se è un anestesista non dia messaggi che rischiano di essere fuorvianti. Poi non mi piace il modo in cui la politica ha ripreso a litigare, in particolare c'è una litigata furibonda, forse gli ascoltatori non lo sanno, ma fra il sindaco di Napoli De Magistris e il presidente della regione De Luca. Senti oggi che dice De Luca e De Magistris sul Corriere della Sera: mi imbarazza perdere anche un minuto su cui parla di cose di cui non capisce nulla De Magistris. Rilevo il fatto sconcertante che apre ancora bocca un sedicente sindaco, che è l'espressione del più grande disastro amministrativo d'Italia. Quasi 3 miliardi di euro di debiti, i tributi più alti d'Italia, trasporto pubblico distrutto, manutenzioni zero e parchi devastati. Parla uno che voleva varare la flotta partenopea e stampare una moneta comunale. Parla uno che non ha fatto più nulla, e posso continuare per ore. Ma io abbasserei i toni. Abbasserei i toni. Anche, ma non anche da parte di anche De Magistris è stato molto duro con De Luca. Forse sarebbe il caso, certo, l'abbiamo avuto ospite qua. Dovrebbero un po' calmarsi tutte e due. Alla fine. Dovrebbero calmarsi tutte e due, anzi De Luca risponde a delle provocazioni di De Magistris, sia chiaro, non è una cosa solo contro De Luca, però tutti e due, insomma, proprio in un momento nel quale il Presidente della Repubblica dice che ci vorrebbe appunto un po' di concordia nazionale, di collaborazione tra le istituzioni. Questi poi stanno sullo stesso fronte, non sono di destra, sono due di sinistra, quindi facciano loro. Che altro hai visto, Paolo? Oggi c'è una notizia clamorosa che purtroppo il virus porta via, ma i giornali, alcuni come Corriere della Sera, danno grande risalto che Francesco in questa marasma ha nominato 13 nuovi cardinali che verranno poi creati il 28 novembre, creati in senso, cioè il primo afroamericano, che tra l'altro è Wilton Gregory, che ha litigato bestialmente con Trump, perché Trump il primo giugno se n'era andato davanti alla statua di Giovanni Paolo II nel santuario costruito dai Cavalieri di Colombo a Washington, e lui, che era arcivescovo di Washington, ha fatto una dura reprimenda contro Trump ed è stato nominato cardinale. Poi altri cardinali, tutti fra personaggi, però adesso io non mi voglio permettere, che meno conosciuti di altri. Sì. Quindi la vera notizia, Paolo, la vera notizia che ci stai dicendo è chi rimane fuori tra quelli che dovevano essere nominati cardinali. Per esempio, non so, personaggi che credo che i nostri ascoltatori conoscano, come Rino Fisichella, uno dei leader della comunità di Sant'Egidio, Vincenzo Paglia. Questi non sono stati nominati cardinali, e gli altri sono alcuni, appunto negli Stati Uniti il primo afroamericano, ma soprattutto c'era una raccomandazione di Paolo VI che non si dovevano superare la soglia dei 120 elettori per eleggere il nuovo Papa nel conclave, e invece è superata ampiamente, 128, i giornali dicono, ma tanto alcuni stanno per compiere 80 anni, fra un po' si tornerà, però insomma... Curioso, è un lungo viaggio del Papa, secondo me, per arrivare alla designazione del suo successore, e gli scommettitori danno come molto probabile il filippino Luis Antonio Tagle, che ha 63 anni, quindi è molto giovane, quindi può rimanere Papa molto a lungo, alla mamma cinese, cioè alla famiglia, il nonno, a dire il vero, è cinese, e il presidente della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, ed è un personaggio in... Il fatto di avere la madre cinese è importante, sì, per le cose di cui abbiamo parlato più volte in questa rassegna, ed è praticamente si sta creando un conclave che potrebbe portare chi dovrà essere, esatto, il successore. Beh, che è chiaro che ci si può sbagliare, come sì, sai, in queste cose. Però, così è. Però è notevole. Dimmi. Paolo, a chiudere ti vorrei portare sulla morte di un partigiano che se n'è andato ieri. È una storia della quale i giornali sono pieni ed è una storia che ha dentro un giallo. È morto diavolo ieri, è morto diavolo. Diavolo, sì. Germano Nicolini stava per compiere fra un mese, avrebbe compiuto 101 anni e fu oggetto di una delle storie più strane del dopoguerra, nel senso che è stato un partigiano eroico, poi appena finita la lotta di liberazione, quando alcuni altri partigiani volevano andare a prendere dei fascisti per giustiziarli, lui, che era anche cattolico, disse no. Questo lo mise in urto con le strutture del suo partito, il Partito Comunista, e di lì a breve fu ucciso un parroco, stiamo parlando della zona di Reggio Emilia, funzionario Don Pessina, e lui, come altri due o tre ex partigiani, fu messo in carcere. Gli altri, approfittando di un momento in cui erano fuori, scapparono in Jugoslavia. Sì. Lui no, rimase e, pur sapendo, e sapendo tutti, che non era stato lui a uccidere Don Pessina, si è visto affibbiare una pena di 22 anni, ne ha scontati una decina, poi è uscito e ha passato tutta la vita per dire io non c'entro, finché nel 1990 un altro ex partigiano, Otello, sì, Montanari, fece un appello, chissà parli, e alla fine, dopo una complicato iter, fu discolpato Germano Nicolini, vennero allo scoperto gli ex partigiani che avevano veramente ucciso questo parroco Don Pessina, e gli telefonò il Presidente della Repubblica, sì, allora era Cossiga, per scusarsi, fu riabilitato e coperto di medaglie. Bene. Ma è un giallo interessantissimo che oggi anche questo purtroppo è un po' sacrificato sui giornali, ma è una storia molto interessante. Però la trovate. Morto anche Mr. Samsung, l'hai visto? Sì, l'ho visto, geniale. L'ho visto. Che aveva portato l'azienda fondata dal padre, l'ha portata da 9 miliardi di fatturato a 400 miliardi, direi, facendolo diventare un colosso coreano. E il suo motto, lui era misterioso, sì, era l'uomo più ricco della Corea, sì, del Sud, e diceva: bisogna, nella vita bisogna cambiare tutto tranne moglie e figli. Vedi. Però io non ti lascio se non mi fai dare la notizia che mi ha più impressionato sui giornali. 30 c'è secondi, un boom, Paolo, di lupi. Ah sì? Boom di lupi, visto? In Italia, sì. Sulla stampa erano quasi estinti, ora sono i 2000, e c'è anche lo scrittore e alpinista Raymond Messner che dice: vi prego, tutelate le mie pecore, me ne hanno regalate due. Qua c'è una... ci sono troppi lupi. Le 8:33 minuti, grazie Paolo, ci sentiamo domani mattina dopo il giro delle 8. È ora di finirla, ma quale camorra, quale criminalità organizzata? È gente normale, gente lavoratori, sono lavoratori disperati, destinati al fallimento causa queste sente maledette, maledetti. Io, e non solo io, ma l'azienda per la quale lavoro, tutte le persone che lavorano in questa azienda, siamo praticamente in 12, ancora non abbiamo visto nulla della cassa integrazione, e ho i miei dubbi che entro la fine dell'anno vedremo quei soldi. Buongiorno, vi ricordo che la cassa integrazione è di competenza regionale, quindi le regioni hanno avuto difficoltà ad erogarla. Grazie. Allora, sulla questione lavoratori arrabbiati, imprenditori arrabbiati, guarda, sono d'accordo, cioè c'è gente che giustamente è arrabbiata, è preoccupata per il proprio futuro, oppure il proprio futuro non lo vede proprio. E a queste persone siamo massimamente vicine. Ci sono pezzi di criminalità organizzata, questo ci ha detto il procuratore nazionale antimafia prima alle 7.45 quando l'abbiamo avuto ospite, che stanno, per così dire, dando supporto e cercando consenso sociale. E una parte degli scontri, anzi forse la parte principale degli scontri, è dovuta esattamente a questo mondo, insieme a estremisti, mondo ultra, questo abbiamo raccontato ed è stato raccontato abbastanza chiaramente. Tant'è vero che ieri c'è stata una manifestazione a Napoli, un'altra manifestazione a Napoli, e questa manifestazione è stata una manifestazione assolutamente tranquilla. E poi il resto, la questione della cassa integrazione. La questione della cassa integrazione è un altro punto centrale. La rapidità con la quale questi soldi arrivano, l'abbiamo detto, a molti non sono ancora arrivati. Abbiamo in linea Pierpaolo Sileri, che è il vice ministro della salute. Sileri, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Allora, la prima domanda è molto semplice. Già guardiamo alla prossima settimana, perché con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri a settimana già ci aspettiamo che domenica prossima arrivi una nuova stretta. O questa volta aspetterete? Ma guardi, al momento non è in previsione un altro DPCM. È chiaro che continua l'azione di monitoraggio. Ora, ovviamente critiche sono state fatte perché sono stati due DPCM ravvicinati, però avete visto anche voi, i numeri sono passati quasi raddoppiando da una settimana all'altra, con alcune aree del paese nel quale è oggettivo il sovraccarico dei servizi, e quindi è chiaro che era necessario procedere a un atto che consentisse di mitigare quella che è la curva dei contagi e proteggere quindi quelle che sono le nostre strutture, il nostro servizio sanitario nazionale. Io, a dire il vero, non sono molto preoccupato dei numeri, o meglio, i contagi ovviamente ci sono. È chiaro che più circola il virus, più è probabile che soggetti più o meno giovani, prevalentemente si tratta di soggetti più anziani, ma purtroppo in terapia intensiva vanno anche soggetti più giovani, vanno a impegnare i nostri servizi sanitari nazionali, e quindi diciamo vi è poi un rischio di sovraccarico che non consente accesso di altri pazienti. Questo ancora non sta avvenendo, e quindi mitigare la curva significa ridurre quanto più possibile la circolazione del virus a una forma che possa essere contenuta. Quanto aspetterete per decidere se prendere nuove misure, Sileri? Vede, le misure, questo io l'ho sempre detto, dovranno, a mio avviso, essere declinate a livello locale. Non ci troviamo nella situazione di marzo, cioè a marzo noi abbiamo avuto un boom chiaramente di contagi e di impegno della terapia intensiva e degli ospedali, ovviamente in pochissimi giorni. Non so se vi ricordate, furono i nostri concittadini che sono purtroppo morti a casa e poi sono, dopo due giorni sono andati purtroppo a prendere la salma. Persone non riuscivano a fare tamponi, ospedali sovraccarichi, ospedali praticamente chiusi perché non vi era possibilità di accesso di altri pazienti. Non ci troviamo in questa condizione, però è possibile che in alcune aree del paese, se il virus dovesse circolare ancora di più, questo possa accadere. Allora, andranno declinate delle azioni a livello locale, e per locale intendo dire anche chiusure, anche la chiusura di una città, di una regione, prendere fiato, e per fiato intendo dire cercare di organizzare il sistema e poi ripartire. Organizzare il sistema oggi non è solo il Servizio Sanitario Nazionale, significa spiegare ancora meglio chi deve fare il tampone, il tipo di diagnostica, indirizzare chi deve essere ricoverato e chi non deve essere ricoverato, aumentare ad esempio sul territorio. Però mi scusi, Sileri, permette una cosa, da quel che abbiamo capito il Presidente della Regione Campania, De Luca, voleva farla questa cosa, cioè di fatto dice che gli avete detto no, che il governo lo ha bloccato o comunque lo ha convinto a fare diversamente. Ma guardi, questo a me, le dico la verità, non risulta, anche perché localmente l'amministratore locale ha la possibilità di applicare misure più restrittive, quindi non vi è mai stato un veto sulle misure più restrittive, viceversa non può allargare la maglia rispetto a ciò che viene deciso a livello centrale. Ma vede, qui il punto è che va organizzato il servizio territoriale, non solo sanitario, individuare gli hotel ad esempio per far stare le persone che sono positive, che in questo momento, soprattutto chi vive in casa, in tre o quattro persone, il rischio di contagiare chi è vicino a lui, e quindi la necessità di portare fuori dal nucleo familiare il positivo che magari sta bene o con pochi sintomi e non farlo arrivare in ospedale, ma dare a lui una struttura dove può essere controllato. Ecco, queste sono tutte azioni che dovevano essere previste, così come dovevano essere previste, molti lo hanno fatto ma molti altri no, creare una mappa della fragilità sul territorio. Voglio dire, ci sono stati molti mesi per far questo. Mappa di fragilità sul territorio significa capire quali sono gli anziani sopra i 65, sopra i 70 anni, con patologie, che hanno bisogno di cura, assistenza, dalla spesa all'arrivo della mascherina a casa, a chi va a comprare loro i farmaci. Cioè, una volta che tu hai creato questa mappa, e la mappa non è difficile crearla, perché metti in campo dal medico di medicina generale alla parrocchia, perché ovviamente chi conosce il territorio sono spesso le parrocchie, le associazioni, e tutti insieme, creata questa mappa a livello della circoscrizione, a livello del comune, a livello di quello che è, hai la possibilità di gestire questi anziani, chi vive da solo, chi vive in coppia, possibilità poi di aumentare anche la capacità diagnostica, cioè creare la possibilità di fare non solo i tamponi. Allora, però Sileri, quello che dico, queste sono tutte azioni che si sarebbero dovute fare durante l'estate, sostanzialmente. Molti le hanno fatte, cioè ci sono degli esempi virtuosi. Io porto sempre l'esempio dell'Emilia Romagna. In Emilia Romagna tutto questo è stato ben declinato a livello territoriale, fino all'utilizzo di test rapidi che possono essere presi in farmacia e dati gratuiti, in maniera gratuita, a tutti gli anziani, per dirne una. Quindi è stato fatto, se è stato fatto da una parte deve essere replicato un po' ovunque, ecco. Sì, ascolti, sul fronte delle misure c'è un tema che è quello che secondo me stanno sottoponendo anche i molti imprenditori che in queste ore protestano, che è un tema di trasparenza, ossia di mancata chiarezza sul perché si prendono determinate decisioni. Cioè, una settimana prima il Presidente del Consiglio dice vedremo tra una settimana se chiudere palestre o piscine sulla base dei controlli che effettueremo. Poi si presenta in conferenza stampa, dice chiudiamo palestre e piscine, ma i dati a supporto di tutto questo non arrivano. Beh, guardi, i dati immagino che siano in possesso del Comitato Tecnico Scientifico. Ma lei li avrà visti, Sileri, o no? No, guardi, io i dati non li ho visti perché, come diciamo ben sapete, come ho detto spesso, io intervengo nel Comitato Tecnico Scientifico dando dei suggerimenti, ma la partecipazione in seno al Comitato Tecnico Scientifico è prevalentemente riservata a coloro che fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico. Io come autorità politica do dei suggerimenti. Quindi i documenti con i dati a supporto delle decisioni politiche che poi dovete prendere, non vi arrivano questi dati? Al Comitato Tecnico Scientifico sicuramente sì, così come all'Istituto di Sanità. I dati vengono presentati, come ben sapete, nel fine settimana, quindi tra il giovedì e il venerdì, ma l'analisi accurata delle varie attività, eccetera, immagino siano in seno al Comitato Tecnico Scientifico. Il quale si limita a darvi dei suggerimenti ma non vi fornisce i dati sottostanti. Fanno un'analisi, almeno quelle che ricevo io sono delle analisi molto accurate e generali. Immagino però che tutto questo poi abbia dietro anche un'analisi divisa per settore, perché è evidente che con un'analisi divisa per settore tu sei in grado di dire nella scuola ho 200.000 studenti, 1.994 contagi, il che significa meno dell'1%, e quindi poter dire no, la scuola può rimanere aperta perché le chance di contagio all'interno della scuola sono estremamente basse e gran parte dei contagi sono avvenuti fuori. La stessa cosa dovrebbe essere fatta ovviamente per tutte le attività, ma per far questo serve, e questo immagino proprio che CTS, ma ancora di più l'Istituto Superiore di Sanità e chi coordina ovviamente la raccolta dei dati, abbia tutte le attività di contact tracing che consentono quindi di capire qual è l'origine del contagio e tutta la catena di contagio, quindi stabilire con una certa sicurezza, che ovviamente capite che spesso una catena di contagio questo sfugge, quelli che sono i rischi stimati. Ma questi dati provengono dalle regioni, quindi attenzione, al CTS, all'Istituto di Sanità, giungono i dati provenienti dalle regioni, quindi questi sono dati che vengono convogliati al centro, ma sono già o dovrebbero essere già in possesso prodotti che sono in mano alle regioni. Un'ultima domanda, Sileri, no, perché abbiamo visto questa intervista Libero a Pietro Senaldi a pagina 7, ma che fa? Finita la legislatura, va a lavorare al San Raffaele con Zangrillo. Allora, innanzitutto Zangrillo è un anestesista. Anzi, peraltro, spero di vederlo poco, a dire il vero, perché essendo lui un rianimatore, vorrebbe dire che i pazienti che opero io vanno male e devono arrivare da lui. Ora il titolo, diciamo, è un po', diciamo, un po' forzato. No, vabbè, voglio dire, è fantasioso per alcuni versi. Cioè, io ho sempre detto, ma non serviva Senaldi, se prende le mie interviste da mesi, ho sempre detto che mi mancano 870-880 giorni al mio ritorno nella sala operatoria. Quello è il mio mondo, do il massimo, diciamo, come vice ministro, lavoro diciamo in maniera instancabile tutti i giorni, però è una bella esperienza, ma la mia vita è la chirurgia. Ma dovrebbe essere così la politica un po' per tutti quanti, cioè io non devo campare di politica, cioè se io dovessi pensare ai miei 70 anni ancora seduto al Senato Non le piacerebbe. Io 70 anni, no, perché la mia vita è fare il chirurgo, quindi la mia esperienza, anche la mia aggressività, diciamo il mio pragmatismo della precedente vita, lo metto ora tutto quanto in politica, faccio la mia bella esperienza e torno a fare il mio lavoro. Tutto, solo questo. Poi lì c'è scritto lascia i 5 Stelle. No, io purtroppo ero 5 Stelle ancora prima di essere 5 Stelle, nel senso che ho sempre preso a testate un po' il mondo e continuerò a prenderlo anche dopo. Magari non si chiameranno 5 Stelle tra 20 anni, ci avranno un altro nome, ma insomma lì vale, in quell'area è. Grazie per Paolo Sileri, vice ministro della salute, buona giornata, buon lavoro. Gianluigi Cimmino è con noi, è un imprenditore, è tra l'altro titolare dei marchi Yamamaya e Carpisa, li conoscete tutti, per darvi l'idea. Cimmino, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, lei è molto critico con la gestione da parte del governo della pandemia e vorrei sentire da lei cosa dice di questo ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ah, io sono stato sempre critico dall'uscita del lockdown, ma anche costruttivo, perché le aziende vanno mandate avanti e quindi abbiamo fatto l'impossibile per farci trovare pronti ad affrontare anche questa seconda ondata. Invece questo decreto è una dichiarazione di fallimento, per me è una caporetto del governo, ma è una caporetto dello Stato, perché lo Stato dovrebbe essere gestito e amministrato dal governo rispetto a tutto quello che doveva essere fatto per arrivare pronti ad affrontare questa seconda ondata. Non è stato fatto nulla, adesso ci troviamo ad affrontare questa emergenza in braghe di tela. E il problema non è tanto quello che c'è scritto in questo decreto, ormai siamo abituati, come ne ho sentito anche precedentemente, ne vedremo tanti altri nelle prossime settimane, augurandoci di non vedere conferenze stampa. Ne sentiremo tanti, la situazione è una situazione effettivamente in molte aree del paese fuori controllo, ma non si può pensare di affrontare altri 6 mesi, perché questo è il periodo che dovremo affrontare prima di arrivare a un vaccino. È impensabile, come è stato detto ieri, che un vaccino possa arrivare a dicembre. Quindi noi abbiamo 6 mesi lunghissimi davanti di emergenza e non si può affrontare questa tempesta con questo equipaggio. Quindi io ho detto in modo molto chiaro che serve un grandissimo senso di responsabilità da parte del governo, da parte della politica. Vanno messe delle persone competenti nei posti giusti. È finito il periodo dei comitati, credo che sia finito anche il periodo dei grandi show come quello degli stati generali. Serve concretezza. Il presidente di Confindustria appena insediato ha dato prova di grande spirito di collaborazione aprendosi al governo, chiedendo una collaborazione. È stato fatto questo decreto senza sentire una sola parte sociale. Allora bisogna essere che è quello tra l'altro Cimino che hanno lamentato anche i sindacati, non è solamente Confindustria, siamo tutti, nel senso, siamo tutti sulla stessa barca. Io lo dico dall'inizio, noi siamo sulla stessa barca con i sindacati, quindi con le parti sociali, siamo sulla stessa barca con i nostri lavoratori. Noi siamo uniti su un fronte dell'Italia, diciamo, che produce e che deve cercare di andare avanti, ma noi non andremo avanti con questo governo, perché non riusciremo ad affrontare questi 6 mesi, ma soprattutto, ancora peggio, non riusciremo a lavorare su questo benedetto recovery fund, perché lei immagini poi questi fondi gestiti da persone che non sono state in grado di gestire poche migliaia di miliardi per preparare il paese a questa seconda ondata. Hanno delle responsabilità enormi, enormi, e sinceramente io gli consiglio di farsi da parte prima che queste responsabilità possano diventare veramente feroci all'interno del paese, che vive una condizione in questo momento di stress che non va fomentato. Bisogna cercare di tenere i toni, diciamo, calmi, ma questo lo devono fare anche loro, perché loro si devono fare da parte, altrimenti saranno anche complici di quello che succederà nelle piazze delle città. Parlo di manifestazioni civili, non del Senta Cimino, ovviamente questa è la sua idea sul governo, appunto, che si dovrebbero far da parte. E la porterei, visto che lei è napoletano, la porterei su quello che è successo a Napoli l'altra sera, che poi ieri c'è stata una manifestazione molto calma e molto tranquilla, lo ribadiamo ancora una volta, quindi non è che tutte le manifestazioni finiscono così. Però le immagini che abbiamo visto a Napoli l'altro giorno sono delle immagini preoccupanti. Sì, allora le immagini dell'altra sera vanno assolutamente condannate, ed è chiaro che trattava di organizzazione, diciamo di una manifestazione preorganizzata. Le immagini di ieri sera assolutamente no, ma mi lasci dire che se in Francia i gilet gialli vanno in piazza e diventano degli eroi, se negli Stati Uniti le proteste anti-Trump diventano proteste, diciamo, contro il fascismo e contro, diciamo, una certa idea di Stato, allora non possono diventare tutte proteste di estremisti, quelle che purtroppo si verificheranno nelle prossime ore nel nostro paese, tipo la manifestazione civile di ieri sera. La gente comincia a farsi sentire, è cambiato, diciamo, veramente lo stato d'animo. Lo stato d'animo oggi è calpestato, vede anche quello che è successo, diciamo, con De Luca. De Luca ormai è un trasformista, si è presentato in televisione invocando la chiusura, invocando un disastro della sanità. Ieri sera l'ho visto, insomma, come paladino degli aiuti economici, dicendo che la situazione sanitaria era sotto controllo. Quindi noi siamo accerchiati dall'utilizzo dei media da parte di questi signori, che non sa dosare anche questo utilizzo e non sa dosare quelle che sono le conseguenze sulle masse. E dall'altra parte ci sentiamo completamente incapaci di affrontare. Io stamattina dovrò affrontare, probabilmente altro dovrò mettere in cassa integrazione altre 400-500 persone. Torno all'esempio concreto che lei ha fatto prima sull'ascolto degli imprenditori. Sabato e domenica abbiamo affrontato la chiusura dei centri commerciali in Lombardia e Piemonte. Noi abbiamo oltre 100 negozi in Lombardia e Piemonte. Io ho fatto uno screening, un controllo per vedere quante persone, quanti dei nostri collaboratori fossero stati colpiti dal virus tra questi 400-500 dipendenti. Bene, le posso dire che nei centri commerciali noi non abbiamo avuto un caso di Covid. Allora dico, prima di prendere, diciamo, un provvedimento, prima di decidere se un luogo, un teatro, un centro commerciale, una palestra, sono luoghi pericolosi o meno, queste riunioni che fanno in questi comitati di controllo, chi ha la capacità di seguirle, analizzare? Nessuno, perché purtroppo, e torno a bomba, purtroppo siamo governati da incapaci, persone che non hanno la maggior parte, perché ad esempio il ministro Sileri, che ho sentito prima, ha tutta la mia stima e il suo ragionamento su come dovrebbe affrontarsi la politica. Ma purtroppo molti invece di questi signori affrontano la politica come professionisti, perché sono incollocabili nel futuro ed erano incollocabili nel passato. Brutale, Cimino, dobbiamo chiudere, grazie. C'è Luigi Cimino, imprenditore, per essere stato con noi. Come avete sentito, ovviamente la sua opinione. Ci risentiamo domani alle 6:30, ciao.